Questa è una manovra assolutamente insufficiente, non crea i presupposti per la crescita e lo sviluppo, cancella gli investimenti, non fa investimenti in welfare, in particolar modo sanità e istruzione, e i principali provvedimenti sono provvedimenti parziali che rispondono a logiche elettorali assistenzialistiche e che soprattutto non creano occupazione. Sul reddito di cittadinanza c'è molto dibattito, anche da destra in realtà. Come valutare però la posizione di Confindustria che sottolineava come al sud i salari sono più bassi rispetto al sussidio? Adesso questa mi sembra una polemica pelosa. Di certo c'è il rischio, ad esempio anche alle nostre latitudini, che una parte consistente del lavoro che noi definiamo povero, e che in particolar modo non è legato a bassi salari ma è legato a orari di lavoro involontariamente ridotti, penso al part time involontario, che questi salari possano entrare in competizione con il reddito di cittadinanza e quindi disincentivare il lavoro. Ma questo non vuol dire che è per questo che non va bene il reddito di cittadinanza, è per questo che bisognerebbe fare un intervento robusto sui salari, mentre il reddito di cittadinanza corre il rischio di diventare uno strumento che non solo non affronta il tema della povertà, ma non affronta neanche il tema della creazione di lavoro e di lavoro stabile. Che cosa dovrebbe fare la politica e che non sta facendo? Beh, intanto dovrebbe mettere in campo una robusta iniziativa di investimenti che siano nelle condizioni non solo di generare fin da subito occupazione e crescita del PIL, ma anche di determinare le condizioni per la crescita per il futuro. Voglio ricordare che il nostro paese è ormai in recessione, che questa recessione dipende da dinamiche esterne, quindi il mercato globale, ma anche da dinamiche assolutamente interne, cioè il calo della domanda interna proprio a causa dei bassi salari, e quindi bisognerebbe sbloccare tutti quegli investimenti che sarebbero necessari a far ripartire l'economia. L'attuale maggioranza, almeno alcune delle componenti insomma della maggioranza, nei sondaggi continua a crescere, quindi cresce il consenso di fronte anche a queste promesse che sono state fatte. Per i corpi intermedi come il sindacato questo rappresenta un problema anche nel mobilitare le persone? No, noi stiamo registrando in questi giorni una sempre maggiore attenzione alle questioni che abbiamo posto. Il clima sta rapidamente mutando, sta cambiando, anche perché man mano che le lavoratrici, i lavoratori si informano rispetto ai contenuti effettivi di questa manovra, scoprono che le risposte molto spesso, troppo spesso, non ci sono. E quindi, anzi, noi registriamo un ottimo tasso di adesione ad oggi alla manifestazione del 9.